fatta di piedi. Anna che piange sempre guardando un film. Anna che mente male eppure ci credi. È tutto già passato ma è vivo qui. Ho troppo da dimenticare. La vita non mi basterà. Anna con sempre troppe collane colori. Grandi decisioni decise mai, gelosa ma senza mai darla vedere, Anna con un talento per fare guai, ho troppo da dimenticare, la vita non mi basterà. Anna che se le piaci ti dà del tu. Anna che non sopporta un treno che parte. Sul treno è partito e non torna più. Ho troppo da dimenticare. La vita non mi basterà.